Letture di Radio 24. Il Codice da Vinci di Dan Brown è uno dei libri più venduti di tutti i tempi. Ma quanti di quelli che l'hanno acquistato l'hanno poi letto veramente? E quanti l'hanno apprezzato? Ancora una volta, Dan Brown ha il dubbio onore di essere lo scrittore di quei libri di cui i lettori desiderano disfarsi maggiormente una volta letti, non trovandoli forse meritevoli di occupare spazio tra gli scaffali di casa propria. Per il secondo anno consecutivo, l'autore del Codice da Vinci è stato piazzato al primo posto della lista di scrittori più donati dell'Oxfam, il colosso della beneficenza non profit, proprietario della più vasta catena europea di negozi di libri usati. Il 46enne autore americano, il cui ultimo crittografico thriller, Il simbolo perduto, è stato pubblicato nell'autunno 2009 in Italia, è seguito nella ben poco lusinghiera lista da Ian Rankin, Patricia Cornwell, Alexander McCall Smith, John Grisham, Danielle Steele e J.K. Rowling. I clienti dei 686 negozi Oxfam sparsi in tutta Europa potranno così acquistare i loro bestseller per una frazione del prezzo di copertina. Come mai Brown continua a dominare questa poco invidiabile hit parade? O i suoi lettori sono davvero generosi, ironizza Sarah Farquhar, responsabile commerciale delle librerie Oxfam, o non vogliono conservare i suoi libri sulle mensole dopo averli letti? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Farkas, Dan Brown, il più regalato. Generosità? No, i lettori si disfano dei suoi libri. Dal Corriere della Sera del 7 settembre. Letture di Radio 24. Nelle grandi città cinesi, giovani e uomini d'affari acquistano vestiti, mobili e auto occidentali, ma opportunamente modificati per adattarli al gusto orientale. La Cina, negli ultimi 20 anni, ha confezionato tutto ciò che indossiamo. Adesso, oltre che esportarlo, ha deciso di indossarlo. Per la moda, il lusso e i beni di consumo planetario è una rivoluzione. Passare dal Made in China al Made for China significa per la prima volta prendere atto di un fatto. In Oriente le persone sono diverse da quelle che popolano l'Occidente. Fisicamente, ma anche per gusto e abitudini. Ai cinesi non piace ciò che convince noi. I giovani di Pechino e Shanghai sono stanchi di adattarsi a pantaloni e scarpe pensati per le taglie forti che dominano l'America e l'Europa. Gli uomini d'affari di Shenzhen e Hong Kong pretendono automobili, bevande e profumi che conservino la qualità occidentale ma trasmettano spirito e abitudini orientali. È un mercato da 1 miliardo di consumatori e in pochi anni, con la crescita della Corea del Sud, di Singapore e di tutto il sud-est asiatico, può raddoppiare. È soprattutto la sola piazza che oggi assorbe i prodotti, che sogna il superfluo sconosciuto che noi non possiamo più permetterci. Il riconoscimento del nuovo mercato mondiale degli scambi, la presa d'atto commerciale di un trasferimento della ricchezza, innescano un mutamento della cultura più immediato di quello che i geostrateghi chiamano passaggio del potere. I marchi della moda, lasciata la Russia, si sono accorti che solo il fatto per la Cina può salvarli, e la corsa a lanciare un nuovo stile alla cinese è partita. Il caso Levi's, pur non essendo il primo, è un simbolo. Per mezzo secolo, qui, i jeans sono stati vietati, in quanto espressione dell'imperialismo statunitense. Dopo la strage di Tiananmen, per un decennio Levi's ha lasciato la Cina per denunciare i metodi brutali del regime. Il brand di San Francisco si è quindi riaffacciato per tagliare i costi di produzione e cercare di mettere un paio di jeans addosso a ogni cinese. La fortuna è stata inferiore alle attese. Prezzi troppo alti, tagli e forme che non consideravano il fisico minuto di milioni di ex contadini trasferiti nelle metropoli. Ora però il Made in China, sufficiente nell'ultimo decennio, non basta più. E i figli degli emigrati dalle campagne cinesi stanno sostituendo quelli del dopoguerra in Occidente. Levi's, per la prima volta in 137 anni di storia, ha così appena lanciato un nuovo prodotto lontano dagli Stati Uniti. In particolare ha inventato il Chinese, il pantalone in tela blu plasmato sul sedere piatto, la gamba magra, la vita stretta e la statura bassa che distingue la maggioranza dei cinesi. Il nuovo modello si chiama Denizen, fusione tra lo storico marchio denim e l'antica filosofia orientale zen. È stato presentato a Shanghai in una sfilata di sole modelle cinesi addobbate con stivaloni e cappelli da cowboy. Il simbolo dell'abbigliamento casual americano, famoso per aver standardizzato la linea mondiale delle ultime generazioni, è stato costretto a mutare fino a reinventarsi su misura per la Cina. Il vicepresidente Levi's per l'Oriente, Terence Zhang, si è affrettato a spiegare che Denizen non si limiterà a vestire la nuova classe media del capitalismo autoritario. Costerà la metà dei modelli classici e presto invaderà anche Europa e Stati Uniti. È l'alta qualità della moda per la massa, l'usa e getta di lusso, l'avanguardia del movimento che pretende di essere sempre all'ultimo grido, senza spendere un patrimonio. Il senso profondo dei Mao jeans è però un altro. La Cina di successo non sosterrà solo i consumi che ha sempre censurato, ma comprerà il mondo, cambiando le nostre abitudini, la spesa, il modo di mangiare e infine la visione dominante della vita. Il corpo, il teenager del Bronx e l'hooligan di Liverpool dovranno presto entrare nei jeans, nelle t-shirt e nelle scarpe da cinesi. Seguiranno le signore dell'alta società, gli impiegati e i banchieri, tutti. Non saranno più gli abiti a essere su misura per noi, ma noi per loro, disegnati per il nuovo modello orientale dominante in questo secolo. Assieme a Levi's si sono mossi anche Hermès, Chanel, Coca-Cola, BMW, Nissan, Vuitton, Diesel, Lee, l'industria cosmetica e tutte le multinazionali del consumo. Chi vuole stare sul mercato o limitarsi a vivere dovrà starci o esistere alla cinese. La grande fabbrica sostituisce il grande sogno e ristruttura anche l'umanità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giampaolo Visetti, Sogni a rovescio, dal settimanale di La Repubblica del 4 settembre. I centri massaggi gestiti dai cinesi hanno ormai invaso Milano e si stanno diffondendo in molte altre città del nord. I prezzi vanno dai 20 ai 60 euro, extra a parte, per le massaggiatrici che li concedono. Rilassante o romantico? La differenza sta tutta lì. Il classico massaggio antistress rispetto a quello condito da ardite carezze inguinali, strusci e palpeggiamenti intimi più o meno hard. Dopo i ristoranti e i parrucchieri cinesi, la nuova invasione è rappresentata dai centri massaggi. In tutta Milano stanno spuntando a ogni angolo. Appena una decina, fino a 3 anni fa, a fine luglio i locali gestiti da cinesi erano 166. Solo quest'anno si sono registrate un centinaio di nuove aperture in tutte le zone della città, in stazione centrale come al Giambellino, a Città Studi e pure in centro, nelle viette attorno a Corso Buenos Aires. E piano piano si stanno propagando alle altre città del nord, Bologna, Torino, Brescia, Verona. I centri estetici italiani sono sul piede di guerra e anche i negozi vicino, che non vedono di buon occhio il via vai di clienti e signorine dei centri cinesi. Non è possibile, sbotta Patrizia, 47 anni, parrucchiera estetista in zona San Siro, una delle zone ad alta densità di macellerie islamiche e doner kebab. Prima i parrucchieri cinesi, ora i centri massaggi. Noi paghiamo le tasse, abbiamo il diploma professionale e subiamo continui controlli del comune. E questi cinesi? Ce l'avranno l'abilitazione? Da fuori i centri cinesi sono tutti uguali. Vetrine impenetrabili rosa a confetto, nomi esotici che inneggiano ai fiori di loto e ai improbabili paradisi orientali, scritta Open al neon rossa, lampeggiante dalle 10 a mezzanotte, orario continuato. I prezzi, imbattibili, sono posti in bella vista sulla porta d'ingresso. Massaggio corpo 20 euro, thailandese 40, romantico con bagna in vasca 60, fino a quello ardente che non si capisce bene cosa nasconda. La maggior parte dei centri sono sulla strada, visibilissimi, altri seminascosti in corti interne e seminterrati. Suona il citofono e ti accolgono le massaggiatrici sorridenti, tacchi, minigonna e ombretto eccessivo. Spesso si tratta di negozi o appartamenti ristrutturati alla bella e meglio. Una mano di tintura rosa o azzurra, luci soffuse e tante stanzette da cui provengono rumori e risatine dei clienti, il 90% uomini di tutte le età. A volte, al posto di odore di unguenti balsamici, c'è puzza di wonton fritti. D'altronde si può capire. Alcune ragazze vivono lì dentro per 12-14 ore al giorno. Lavorano, massaggiano. Alcune dormono persino, sui divanetti in similpelle oppure sui lettini dei massaggi, che poi sembrano quelli del dottore. L'ambiente è squallido. Niente musica chill out, solo piante di plastica e cascatelle d'acqua molto kitsch. Dopo i convenevoli vieni accompagnato in una stanzetta. Spogliati, prego. Già qui si può capire se si tratterà di un semplice massaggio o di qualcosa di più, racconta Massimo, 40 anni, agente di commercio e abitué dei centri cinesi. Se la ragazza ti lascia il perizoma di carta, esce e prima di rientrare bussa, è un buon segno. Altrimenti se non bussa, ammicca o ti fa sdraiare tutto nudo, gatta ci cova. Dopo la contrattazione sugli extra del massaggio, a quattro mani, con bagno in acqua calda, tutti addebitati sul conto finale, vieni cosparso di olio e inizia la manipolazione. Comincia sempre a pancia in giù, continua Massimo. E che sia rilassante, giapponese o thailandese non fa molta differenza. Più o meno i massaggi sono sempre tutti uguali. Quello che cambia è il finale, dopo che la signorina ti invita a girarti. Lì, in alcuni centri, le avance diventano esplicite, i gesti inequivocabili. È qui che può scattare l'offerta dell'happy end, ovvero della prestazione sessuale mai completa, con tariffa a parte. L'eventuale extra varia dai 20 ai 50 euro, che intasca direttamente la ragazza. D'altronde la paga è a percentuale su ogni prestazione. Dal 30 al 40% a botta e l'eventuale surplus bollente è tutto guadagno esentasse della ragazza. Alla cassa di ricevute neanche l'ombra, e nessuno le chiede. Solo una tessera fedeltà, ogni 10 massaggi uno gratis, come per i film in videoteca. Arrivederci alla prossima, con tanti saluti del gatto d'oro alla cassa, che ti fa ciao ciao con la zampina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Max Cassani, Le mani delle cinesi su Milano, dalla stampa del 6 settembre.